Storie de Noaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera a voi tutti, cari ascoltatori, da parte di Gesi e Antonio. Oh, Antonio, siamo qui anche stasera e avremo un ospite virtuale, quindi lo chiameremo telefonicamente. Vabbè, allora la parola a te. Perfetto, allora un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici su Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Il nostro indirizzo internet è naturalmente come al solito www.bluradioveneto.it. Il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro è il 346 23 20 033. Ricordiamo che è anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare naturalmente un cordiale saluto al nostro regista. Sì, quello non deve mancare mai. Allora, stasera abbiamo appunto, come dicevamo, il professor Bellemo per telefono, no? E che ci parlerà delle isole che attorno a Venezia, insomma, sarà Murano, Burano, Torcello, San Pietro del Deserto, altre forse. Però prima di tutto noi ci ascolteremo un brano dedicato a Venezia. Questa volta, Antonio, non faccio ascoltare una canzone. Ho scelto un brano strumentale. E beh, c'è anche la canzone cantata da Alberto Colla e da altri anche. Però questo invece, questo brano strumentale è interpretato al pianoforte da Carmen Cavallaro e quindi voi sentirete le onde del mare, sentirete i mandolini, insomma, vi sembrerà di essere proprio in riva al mare. Ce l'ascoltiamo insieme, la gondola va. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo al telefono il professor Luciano Bellemo. Pronto? Pronto. Caro professore. Buonasera, professore. Buonasera. E bentornato fra noi. Stasera lei ci parlerà? Delle isole della Laguna di Venezia. Allora, a lei la parola. Allora, possiamo dire che ci sono due grandi isole che staccano il mare dalla laguna e sono quella che va dal Lido a Malamocco e l'altra che è l'isola che fa da San Pier in Volta più o meno Pellestrina. Queste sono le due grandi isole. Poi, e quindi c'è queste isole, una volta, siccome la Laguna Veneta aveva meno acque, erano più larghe, aumentando diciamo l'altezza del mare, sono rimasti proprio delle piccole delle strisce proprio, sì. Dove ci sono ortaggi e si coltivano ortaggi e dove vive anche parecchia gente, tra l'altro pescatori. Poi invece abbiamo le isole più piccole, Burano, Murano, San Francesco del Deserto, Torcello, San Lazzaro degli Armeni, il Lazaretto Novo, Sant'Erasmo, Le Vignole, San Michele, La Certosa, San Clemente, San Servolo, Poveglia, Mazorbo e anche, se può mettere, anche San Giorgio Maggiore, anche se ormai si è aggiunta a Venezia. Anche Caroman? Caroman non è proprio un'isola, ma è una parte appiccicata all'isola di Pellestrina. La parte finale dell'isola di Pellestrina si chiama Caroman. Ma siccome mio figlio è nato in colonia quando era bambino. Adesso non c'è più colonia. Lì ci sono alcuni uccelli che nidificano solo lì in Italia e quindi c'è il problema di ricostruire dove c'erano le colonie, ma anche di rispettare questi animali che nidificano solo lì. Quindi insomma abbiamo tantissime isole che circondano Venezia. Queste sono le isole che sono rimaste, perché altre sono rimaste sott'acqua, cioè col tempo si sono perdute. Perché aumentando di altezza l'acqua nella laguna, le isole più basse sono state occupate dalla laguna stessa. Peccato, perché sono bellissime le isole. Eh sì, e hanno ognuna una storia sua. Ah. Ad esempio, prendiamo Buran, i buranei, sì, che abitano a nord della laguna, ecco, e c'è una frase che dice «Attila flagellum dei», è il pare di tutti i buranei, perché hanno un carattere abbastanza vivace. Ecco, per usare un eufemismo, insomma. Ecco, no, questo carattere così. E i veneziani ne raccontano, e anche quelli di Murano raccontano quelli di Burano. Ad esempio raccontano che i buranei furono trovati attorno a un tagliere della polenta, con i denti chiusi in ciavai e con la polenta davanti, e a trovarli erano morti di fame. Allora hanno cercato di capire il motivo. E il motivo perché mancava l'asse. L'asse era quello spago che si trovava sulla parte finale del tagliere, la parte del manico, c'era un buco e lì c'era uno spago. Con quello spago si tagliava la polenta. Mi ricordo. Ecco, allora hanno detto che appunto mancava l'asse. Ah. E chiaramente poi quelli di Burano dicono a quelli di Murano che sono venuti a portare via il botticello. Cioè avevano trovato, ecco, le reliquie dei corpi di Sant'Albano, San Domenico, Sant'Orso e il botasso di Sant'Albano. Questo botasso di vino pare che a Burano desse sempre vino. Allora quelli di Murano, che si sono un po' seccati, l'hanno rubato. Ma il santo cosa ha fatto? Ha fatto che il botasso diventi qualcosa di marmo e si trova appunto impresso nella pietra nella chiesa di San Donato a Murano. Quindi tra Muranei e Buranei c'è una storia, altre storie. Sono cugini ma non, che vanno d'accordo, no? Sì, vanno sì? d'accordo, sono tutti veneziani, quelli Muran e quelli Buran, ma ognuno va per i fatti suoi. Allora, Murano mi pare che sia la patria dei merletti, no? No, Burano è quella di Merletti. Allora, Murano è quella del vetro. Del vetro, sì. E qui c'è la chiesa di Santa Maria e Donato, che è di stile veneto bizantino ed è del VII secolo, poi rifatta nel XII secolo, quindi una chiesa molto antica. Ed è Murano, è formata da 7 isolette piccoline che sono collegate tra loro da ponti. Quindi ci si va anche da un'isola all'altra, ci si va a piedi? No, bisogna andare col vaporetto. Sempre col vaporetto. Il vaporetto partono da Venezia e va sia a Murano e sia a Buran. Ho capito. E che bello che deve essere. Non mi pare di essere stata su queste isole. Poi continua, va a Mazorbo, Torcello, quindi c'è la possibilità, partendo da Venezia, di andare a vedere queste isole a nord. Chiaramente Murano è molto collegata e Torcello è molto, diciamo, scollegata. Sono Torcello, solo poche sì. linee che vanno su e giù. Comunque, se io sono a Murano per andare a Murano. E c'è il vaporetto che fa Venezia, fa Venezia, Muran, Buran. Sì, sì, e poi una volta era il numero 5, adesso non mi ricordo perché io ho insegnato a Venezia per 6-7 anni, mi ricordo qualcosa, ma dopo hanno cambiato tutti i numeri e quindi è difficile anche, ogni tanto sai, cambia le giunte e cambia i numeri dei battei. Okay. Torcello dicono che è una bella isola. No? Torcello invece è un'isola antichissima, è stata la sede dei insediamenti cristiani e anche romani più antichi. Dei primi insediamenti quindi, sì. È del V-VI secolo. La cattedrale di Santa Maria Assunta è importantissima, che è stata rifatta verso l'anno 1000 e c'è un giudizio universale del 1000 più o meno. Lì si trova il trono di Attila, è famoso, e il ponte del diavolo. Esatto. E il ponte del diavolo è un ponte che dice che due innamorati, lui era italiano e lei era italiana, lui era austriaco, e si volevano trovare insieme e non riuscivano. Ah. E allora sono andati dalla striga, mm-hmm. E la striga ha detto al diavolo, faccio io, mi arrangio io. E anche la striga, visto che i due erano innamorati, sta maga, e allora non si presenta all'incontro. E allora c'è il diavolo lì, dicono, che aspetta di vedere se passa qualche coppia oppure una striga da portare giù agli inferi. Il diavolo ci mette sempre la coda dappertutto. È poveraccio, ma è stato imbrogliato da una donna. Mestiere. E le donne sono, ne sa, una più del diavolo. È una più del diavolo. Okay. Perché il diavolo ne sa talmente ma tante, che però le donne ne sanno di più. Ne sanno una in più. Infatti a Chosei dice che Eva ha mangiato la mela prima, per cui ha un quarto d'ora d'anticipo rispetto ad Adamo. Ah, ho capito. E poi ci parlerà anche di Chioggia in un secondo tempo. Sì, e anche delle altre isole, perché le conosco, perché abbiamo portato su e giù gli studenti. E da Venezia andavamo su e giù, oppure anche da Chioggia andiamo su a vedere queste isole che sono fondamentali. Ma anche quelle piccoline sono tutte abitate? Sono per la maggior parte abitate, poi ci sono anche i vecchi ottagoni che ha fatto la Repubblica Veneta per difendere in caso di invasione, e su quelle sì sono disabitate. Una volta c'erano le batterie per difendere la laguna, adesso ce n'è uno qui vicinissimo a Chioggia, un ottagono, ma ci sono anche più avanti, difendono le entrate delle bocche di porto. Ho capito, e comunque deve essere... La vita deve essere abbastanza distensiva sulle isole. Ah, ce n'è una che è distensivissima. Se uno deve fare la tesi di laurea oppure deve andare a pregare, c'è San Francesco del deserto. Forte. Qui a San Francesco pare che San Francesco d'Assisi nel 1220, tornando giù dall'Oriente, sia passato, dopo aver incontrato i saraceni, i turchi, eccetera, e aver dialogato pacificamente, ecco, ci si è fermato lì in quest'isola, si è arrivato a Torcello e si è fermato in quest'isola. E 13 anni dopo c'è Jacopo Michiel, che è un signore di Venezia, ecco, che dona l'isola ai frati minori e dice che già esisteva una chiesa dedicata a San Francesco. Nel 1233 sono appena 5 anni che è stato canonizzato San Francesco. E questa isola è stata... Una volta anticamente era frequentata anche dai romani, ci sono reperti del IV e V secolo dopo Cristo, poi è stata abbandonata nel 1400 e adesso è un'isola dove si fanno anche gli esercizi spirituali della diocesi di Venezia, si possono fare anche le tesi di laurea, quieti, è un fascino di quest'isola che molti artisti e poeti hanno sviluppato poi anche nei loro scritti, quindi è un centro importantissimo anche sia dal punto di vista religioso, sia se uno vuole andare nel deserto veramente, esatto. È San Francesco del deserto. E c'è un San Pietro per caso, c'è un'isola di nome San Pietro? San Piero, sì. Sì, ecco, allora, sì. Non è proprio l'isola, ecco. È San Piero in volta. Eccolo. Allora, andando da Pellestrina verso nord, cioè verso Venezia, c'è un centro che si chiama San Piero in volta, perché lì nel 903-904 erano arrivati gli Ungari. E il giorno di San Pietro i veneziani sconfissero gli Ungari e quindi San Pietro in volta torna perché in Rio, torna in Rio, che sai via. Ecco. In volta, sì. E Albiola, si chiamava Albiola, è stata chiamata poi San Piero in volta. E quindi San Piero è come quelli di Pellestrina che parla cantando. conoscete qualche dunque parla cantando come i cinesi, e o de Pestrino o de San Piero. Addirittura, però è una cosa molto particolare, quindi sì, caratteristica. Sì, ha un dialetto particolare, come i cinesi che come parlano. Sì, esatto, hanno questa musicalità. Diciamo. Io ho una nipote che ha sposato uno di lì, e quando parla si sente subito che canta. Quindi loro parlano cantando, ma non so come sarebbe. Sì, vabbè. Bisogna sentirli parlare. Ecco. Adesso ci fermiamo un momentino, professore, e ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo da lei. Va bene. Ecco, lei ci aspetta. Sì. Allora, la seconda canzone in programma è cantata da Gigliola Cinquetti e si intitola Romantico Blues. Oramai non dormo più, quando è notte vado camminando. Da quando c'è lui, io mi chiedo se son viva oppure sto sognando. Sognando di lui. Nel silenzio della notte una voce mi dirà: l'amore è un romantico blues, un blues che fa morire il mio cuore. Di giorno lo voglio scordare, di notte penso a lui. Io l'amo anche quando non c'è, quel blues che fa morire il mio cuore. Io l'amo ogni giorno di più, perché oramai non dormo più. Tu mi dici che verrà, mi amerà, ma quando tu lo vedi solo tu con gli occhi tuoi soltanto, ma non sai nemmeno tu dov'è. Nel silenzio della notte una voce mi dirà: amore è un romantico blues, un blues che fa morire. Eccoci ancora con voi e con il nostro professor Luciano Bellemo. Professore, c'è? Sì, ci sono. Ecco, adesso ci parlerà anche di Chioggia, poi o no? Quando volete, qui delle isole ce n'è da raccontare. Beh, allora lei racconti quello che desidera raccontare. Perché tra chioggiotti e veneziani c'è un rapporto di amore e odio insieme. E perché? Perché il solito problema, da una parte c'erano i signori, i siori veneziani, e dall'altra che già i poveretti, che erano i pescaori, erano ortolani, quindi c'è questo rapporto. Ma che è un rapporto dialettico e vivace, e che fa la ricchezza praticamente della nostra, di tutta la nostra nazione, credo, per certi versi. Sì. Anche perché, ad esempio, i chioggiotti erano bravissimi nel tirare con la balestra. C'era addirittura una nave che veniva messa a disposizione dalla comunità di Chioggia per la Repubblica di San Marco quando c'era qualche guerra. Beh, cioè, quindi c'era questa collaborazione, sì, giustamente. Si sentivano veneziani, diciamo. Certo. E anche qualche veneziano scrive, dice, i chioggiotti che sono veneziani come noi. Oh. Quindi c'è uno storico che loro scrive perché sono stati aiutati. Ad esempio ci sono alcuni tentativi di rivolta nel 1310 a Venezia e i veneziani chiamano in aiuto il podestà di Chioggia che arriva con le sue truppe il giorno di San Vito e Modesto scendono giù e riescono a eliminare questa rivolta contro il Doge. È il vostro protettore San Vito? No, il nostro protettore è San Felice e Fortunato, che sono due santi, di sono stati martiri di Grado, però loro sono stati uccisi ad Aquileia. Quindi da Aquileia sono passati a Grado, poi da Grado a Malamocco per poco tempo, poi da Malamocco a Chioggia, e sono patroni della diocesi di Chioggia. Allora, vicino a Chioggia c'è anche Albarella, no? Sì, Albarella isola. Siamo già nella provincia di Rovigo, è l'isola dei signori. Una volta lì sì. Scendeva il ramo nord del Po e ha formato tutte queste isole. Poi nel 1600 i veneziani, approfittando del cambio tra Ferrara e lo stato della Chiesa, perché l'ultimo degli Estensi muore e la zona di Ferrara passa al Stato Pontificio, e allora lì deviano il Po più a sud. C'è la famosa divisione del Po a sud, e quindi quelle isole là sono rimaste. E ultimamente c'è un bel gruppo l'ha investita dal punto di vista economico. Esatto. Ci vuole il pass per entrare. Esattamente, ecco. Sì, sì. E se uno non è della noblesse, è difficile che riesca a entrare. Insomma, sono tutti signori lì ad Albarella. Prima ha cominciato gli svizzeri, poi anche i grossi proprietari. Mi pare che anche la Marcegaglia. È la Marcegaglia, sì, sì, esatto. Ecco, tanto per sì. cambiare. Sì, sì, esattamente. Abbia parecchie terre lì in quella zona. Esatto, anche esatto. Anche il poeta Rodolfo Vettorello, che abita a Milano, e lui d'estate, da giugno a ottobre, novembre, vive ad Albarella. Io ho una sorella che fa l'ufficiale giudiziario a Milano, che ha la casa all'Isola Verde, che è tra il Brenta e l'Adige, che è un'altra spiaggia che c'è prima di passare ad Albarella. Sono posti affascinanti comunque, decisamente. Sì, molto belli, finché non ci sarà quando c'è la speculazione edilizia, allora siamo rovinati. Certamente. C'è qualche isola che ancora è lo stato, che non è stata sfruttata dalla San Servolo? No. Beh, San Servolo adesso San Servolo era il vecchio manicomio, ospedale psichiatrico. Inizialmente San Servolo erano frati e suore benedettine. Poi questi se ne sono andati e nel 1625 diventa ospedale militare. Nel 1797 Napoleone manda i primi pazzi e nel 1798 il governo austriaco lo fa dall'ospedale Fate Bene Fratelli e diventa il manicomio centrale del Veneto per la Dalmazia e il Tirolo. E vicino c'è quello femminile che è San Clemente, le donne. Tanto che a Chiosi dice ancora te manda i campaniletti. Perché erano delle chiesette piccole con i campanili piccoli. Adesso invece dice te mando al Dolo perché sono stati spostati al Dolo. Dal 1805 al 14 i francesi hanno portato a San Servo i soldati che erano malati. Poi con il Regno d'Italia la provincia li ha avuti in possesso e nel 32 i manicomi sono diventati ospedali psichiatrici. Nel 78 c'è la famosa legge Basaglia, cui vengono chiusi. Adesso lì la provincia ha fatto una fondazione, si chiama San Servolo, Istituto per le Ricerche, gli Studi e l'Immaginazione Sociale e Culturale, e della Venice International Institute. Di Ca' Foscari pare sia, sì. E poi c'è la Europrogettazione. E lì c'è anche l'Accademia delle Belle Arti di Venezia, una parte. Quindi è diventata. Infatti è diventato un centro di cultura straordinario. Bellissimo. Sì. Vicino San Clemente, dove c'erano invece le donne. Ecco, e quindi so che è stato fatto con i soldi della legge speciale uno studio specifico e anche interventi specifici. San Servolo oggi è importante. Sono circa quasi 5 ettari, di cui quasi 4 sono destinati a giardino. Oh, che bello. Quindi bellissima, è una zona da vedere. Certo, e Saccasessola? Saccasessola invece si trova vicino a Venezia, è una parte di Venezia. Lo so perché una volta mio papà lì aveva i vieri per le molecche, adesso è un po' interrata. Ma l'isola più antica qual è? cioè quella più abitata anticamente. Sì. Probabilmente Torcello è rimasto, credo, è rimasto, sì. Torcello. Poi San Giorgio Maggiore, siamo nel 982, quando arrivano i Benedettini. Sì. Però lì siamo già a Venezia. Cioè, ce ne sono parecchie isole, ad esempio, per divertirsi, quelli di Burano, gli altri veneziani, anche i Ciasotti, che dice che ha Sant'Alban, che ha il Brasso de Pegola. Cosa vuol dire? Che il loro santo protettore ha il braccio di pece. Ah, di pece. Perché pare, secondo una leggenda, che loro avessero sto Sant'Alban. Hanno tre santi, Sant'Albano, San Domenico e Sant'Orso, ma lo più grande è Sant'Albano. E che qualcuno abbia segato il braccio e abbia messo un pezzo di pegola, di pece, e poi l'abbia dipinto di oro. E quando è andato su in processione, che era caldo, il braccio si è disteso, e hanno detto che Sant'Albano ha benedetto quei de Buran. E allora è detto in giro. Altri dicono invece che l'hanno fatto di rame e l'hanno spacciato per oro, solo che il rame col tempo si annerisce ed ecco per questo è diventato il Brasso di Pegola. Sì, diciamo che ogni pretesto è buono per stuzzicare, per entrare in diatriba, giusto? Beh, per divertente. Esattamente. Però Burano è anche il centro dei merletti. Esatto. Sì, sì, e anche qui c'è un antico mito. C'è un antico pescatore, è stato promesso sposo a una bella ragazza di Burano, ma le sirene hanno tentato di incantarlo. L'uomo però resiste ai loro incanti. Allora questa signora, che era anche regina, rimane affascinata da lui. E la sirena, con la coda, ha colpito il fianco della nave e dalla schiuma è venuto fuori un velo, il velo nuziale per la sposa. E lui ha consegnato il giorno delle nozze questo velo alla sua fidanzata. Allora tutte quante le ragazze di Burano si sono un po' invaghite di questo lavoro e hanno cominciato a imitarlo. Per cui abbiamo i merletti fatti o col tombolo, sì, questo è tipico sia di Burano sia di Pellestrina, oppure lo fanno con la rete e quindi con un altro sistema a rete, e qui se lo fanno anche il lago e filo, e lo fanno anche a Chioggia, lo facevano almeno fino a un certo tempo fa. Ma volevo chiedere, lavorano ancora il tombolo? E noi abbiamo messo su una piccola scuola dove insegniamo alle giovani che vogliono farlo. Questa è una cosa meritoria, effettivamente. Sì, perché sennò si perde la tradizione. Stiamo perdendo un sacco di tradizioni e di mestieri di un tempo, eccetera. Ad esempio, invece, a Murano c'erano le impiraresse. Cioè, le perle, quindi. Le perle. Poi avevano 4-5 aghi con il filo dietro e infilavano le perle. Dove e così facevano delle lunghe collanine di perle che poi venivano vendute. Oppure venivano messe per abbellimento. Ad esempio, i merletti venivano venduti negli Stati Uniti. Addirittura? Sì, c'era un gruppo che si chiamava Yesur, di origine ebraica, che comperava dalle mistre, sono quelle che danno il lavoro, a queste ragazze. Allora, le ragazze facevano il lavoro, lo davano alle mistre, le mistre lo andavano a vendere a Venezia e questi lo portavano fuori Venezia. Non ho capito, le perle le fanno a Murano? Allora, le perle le facevano, adesso ormai si fanno il velo meccanico. A Murano, e c'erano poi in tutte le isole queste ragazze, le impilaresse, oppure anche lavoravano col merletto e serviva le ragazze per farsi la dote. Ah, hai capito. Con questo lavoro mettevano via i soldini per farsi la dote. Una volta ci tenevano parecchio a farsi anche a mano la biancheria, le lenzuola, tutto. Adesso invece troviamo tutto pronto. Burano anche è un altro fattore, che i colori delle case, che sono sono dipinti anche a Pellestrina. Anche a Pellestrina. A Chioggia no, per un motivo tecnico, urbanistico. Perché allora il magistrato di Chioggia, il maggior consiglio, dice: se la vuoi dipingere devi pagare. Ah. Allora preferiscono tenerle tutte grigie. Però era un piano colore ante litteram, diciamo, quello che di Burano, perché sono colori straordinari. Sì, sono vivacissimi. Molto belli, molto belli. E anche a Pellestrino li trovo vivacissimi. E adesso anche a Sottomarina, perché più o meno il gusto è quello. Ecco, volevo chiedere, Sottomarina è un'isola anche quella, no? O no? No, né Chioggia né Sottomarina erano isole. Allora, Sottomarina non è sicuramente un'isola. Chioggia non era un'isola fino al 1540, quando i veneziani tagliano un canale, si chiama il canale della Cava, in modo che in caso di guerra si può bruciare il ponte e la città è circondata dall'acqua. Ma naturalmente sarebbero due penisole che entrano su in laguna. Ah, ho capito. I Chioggiotti sono stati isolati, fatti diventare isolani, che non lo erano. Professore, lei ci aspetta un attimo che mettiamo un'altra canzone, no? Sì, sì. Ecco. Adesso noi le offriamo un bicchiere di champagne, va bene? Intanto che ci aspetta. Allora, la terza canzone in programma è cantata da Peppino Di Capri ed è intitolata Champagne. Champagne per brindare un incontro con te che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito. Stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi la scusa più banale per rimanere soli io e te. E poi gettare via il perché, amarti come sei, la prima volta. Champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito, ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Ed eccoci di nuovo in studio con il professor Bellemo e niente, sentiamo altre cose affascinanti sulle isole veneziane. Quindi una bellissima isola da visitare è San Lazzaro degli Armeni. Oh, lei mi ha tolto le parole di bocca, pensavo proprio di chiedergliele. È vicinissima a Venezia ed è stata adoperata fino al 1200-1003 come il lazzaretto lebrosario. Per questo si chiama San Lazzaro Mendicante, patrono dei lebrosi. Quando poi la Repubblica lo ha chiuso e lo ha abbandonato nel 1500, è rimasto abbandonato fino al 1717, quando la Repubblica di Venezia ha dato quest'isola a un gruppo di armeni che sono fuggiti dall'Armenia per la persecuzione di Istanbul, dei turchi. E sotto la protezione del Papa, questi armeni, che non sarebbero proprio cattolici, ma diventano, questo gruppo qua diventa cattolico, quindi sono armeni cattolici, mentre gli armeni è un gruppo di, diciamo, stile ortodosso, prima ancora dell'ortodossia, sono a sé, va bene. Comunque, gli armeni si portano nell'isola e formano, con 17 monaci, la chiesa, vi costruiscono un monastero, è stato ingrandito parecchie volte ed è importantissimo, e sono circa 3 ettari di terreno, perché ospita la biblioteca di 200.000 volumi del mondo armeno, cioè la cultura armena è stata salvata lì. Adesso l'Armenia è ritornata ad essere Stato, con la caduta dell'89 e l'Armenia è Stato, e quindi ha ritrovato gran parte della sua propria cultura storia, sì, esatto, conservata da questi monaci. È una cosa straordinaria. Ci sono addirittura 4.000 manoscritti armeni, cioè scritti a mano, poi ci sono manufatti arabi, indiani, egiziani, e c'è anche la famosa mummia, chi va lì, della mummia di Nemeket, che è del 1000 avanti Cristo. Mamma mia! Sì, è una cosa eccezionale. Quello è un giro da fare con gli studenti, per vedere come un gruppo di pochissimi, una ventina di monaci, ha salvato un'enormità della cultura armena. Anche perché molti armeni che erano scappati via sono andati negli Stati Uniti, qualcuno è anche famoso regista di film, eccetera, hanno riconosciuto San Lazzaro degli Armeni come il loro centro culturale. È lì a Kazan, se non ricordo male. Sì. E l'hanno finanziato per quanto potevano, in modo che la loro cultura rimanesse. Oggi questa cultura, sono venuti anche i ministri dell'Armenia, è un ponte tra l'Oriente e l'Occidente, tra Venezia e il mondo armeno. Una storia affascinante. Sì, molto affascinante. Gli armeini, mi pare, armeini, che si dice dalle nostre parti, le albicocche armeini. Sì, mi pare che fosse una radice prodotto di provenienza armena proprio. Armena. Sì, sì. Ed è bellissimo perché questi frati hanno mantenuto la loro cultura. Il passaggio che fanno è quello di passare dalla Chiesa armena alla Chiesa cattolica. Quindi c'è, diciamo, una via di passaggio tra il mondo armeno e il mondo cattolico attraverso San Lazzaro degli Armeni. Quindi loro sono cattolici? Loro sono cattolici riconosciuti dal Papa di allora. Ho capito. Quindi, una cosa affascinante. Sì, ma quindi professano la nostra religione, in sostanza. Sono melchitaristi. Melchitaristi, ecco. Si chiama Ordine dei Melchitaristi. Ma sono cattolici come noi. Sì, perché... Comunque è molto affascinante. E poi ci sono, lei mi parlava anche di altre isole piccole, no? Sì, che sono... ad esempio una isola di cui possiamo parlare è l'isola, non so, facciamo Pelestrina, perché a Pelestrina cosa capita? Che nel 1700 abbiamo l'apparizione della Madonna di Pelestrina, 1716. Ah, ho capito. Il 4 agosto del 1716 c'è un ragazzino che si chiama Scarpa, Natalino Scarpa, detto il mutto perché tutti quanti hanno il soprannome come da noi, questo ragazzino di 14 anni passa vicino al tempietto e trova una anziana signora che gli dice, vestita d'azzurro, vien qua Fio, vien qua dal Piovan e dighe che faccia celebrare delle messe per le anime purgatorio, se vogliamo avere vittoria, e portimi la risposta, e te dico a ti perché ti sei degno. E lui porta questa risposta al suo cappellano. Il giorno dopo viene pregato, il giorno dopo abbiamo la grande vittoria militare di Porta Peter Varadino del principe Eugenio di Savoia. Ah. Quindi il giorno 5 di agosto del 1776. E poi i turchi sconfitti lì tentano di prendere l'isola di Corfù, che è dei veneziani. Sì. E i veneziani riescono a uscire fuori, fanno una sortita e hanno la fortuna che alla sera fa un grande temporale, piove eccetera, e i turchi che sono già in fuga scappano e dicono che devono abbandonare l'isola perché dove regnano, dissero, degli dei ostili. Mamma mia, addirittura. Lo dicono loro, quindi abbiamo documenti loro. È importantissimo perché ancora oggi, il 5 di agosto, c'è la festa dell'apparizione della Madonna di Pelestrina. Lì è Pelestrina. Ma è stata un'unica apparizione? Un'unica apparizione. E i veneziani chiaramente è stata anche un segnale, perché il Senato aveva dato ordine, visto che i turchi stavano avanzando, avevano occupato la Morea, eccetera, e avevano dato di aprire tutte le chiese dedicate alla Madonna e di pregare la Madonna. Ed è questo. C'è anche una piccola annotazione, questa però non so quanto possa aver valore. A Maggiugorje, qui chi ci crede ci crede, chi non ci crede non ci crede, sì. Hanno chiesto ai ragazzi qual è il giorno in cui la Madonna è nata, per fare il suo il compleanno, e lei ha detto il 5 di agosto. Hai capito? Adesso non penso che quelli di Maggiugorje sapessero della battaglia di qua, va bene che lei, il fatto che succede è vicino a Novi Sad in Serbia, sì, la battaglia, comunque è interessantissimo tutti questi elementi, e ci tengono moltissimo i palestinoti, perché quel giorno fanno le grandi vogate, regate, fanno da mangiare il pesce, è una festa continua. Festa grande. E anche qui che c'è a Venezia, vengono a Palestrina perché è la festa, la loro festa. Palestrina è grande come isola? È lunga e stretta. Ah, ho capito. Da una parte ci sono i murazzi, sono stati fatti dalla Repubblica Veneta per difenderla dal mare. Siamo alla fine della Repubblica. C'è una scritta in latino, Ausu Romano Ere Veneto, cioè con il coraggio dei romani ma con i scheli dei veneti. Ah, okay. Beh, e questo potrebbe essere un motto da sottolineare. E lì hanno fatto tutto questo muraglione che difende la laguna dai momenti di tempesta, di maltempi, eccetera. In parte qualcosa era andata alla malora quel famoso 4 novembre del 66, e poi con la legge speciale l'hanno rimessa a posto. Ah, quella volta dell'alluvione. Infatti quella volta dell'alluvione l'acqua del mare è riuscita a superare i muraglioni e entrare dentro Palestrina. Mamma mia. E la gente ha dovuto scappare, e adesso le hanno alzate. Mi pare che sia venuto Kennedy, gli americani, a vedere, e hanno anche loro finanziati in parte, quindi meno male così. Comunque la Serenissima è stata sempre un approdo di tanti, stavo pensando degli armeni eccetera, ma poi anche il Fontego dei Turchi, sì, che mi pare contenesse addirittura una moschea a suo tempo. Sì, c'era questa capacità di accettare le culture altrui, purché esatto, avessero, e il patriarca che è uscito, Scola, parlava di metticiato, cioè la possibilità di accordarsi, di mettersi d'accordo tra culture diverse nel rispetto una dell'altra, rispettando però quella di base, che è quella della Repubblica Veneta, dove c'era. Una volta accettati alcuni elementi di valutazione comune, tutti erano liberi, giustamente. Questa è una grande lezione, mi pare che si possa trarre da questo. Sì, chiaro. E il modo futuro, probabilmente guardando il passato, esatto, si può vedere il futuro. Certamente. Che bello. Lei ha ancora un po' di pazienza che ti ascoltiamo un'altra canzone? Sì, io sono pensionato. I pensionati hanno per natura la pazienza. Ma sì, vabbè, mettiamo così, insomma. Vabbè, allora adesso ci ascoltiamo, cantata da Gilda Giuliani, Serena. Pigione della stanza da pagare, la foschia dell'autunno sopra il mare, il saluto del mattino era il grido di un gabbiano, troppo in alto, troppo solo, chi lo sa? Pane e sogni tutti dentro un caffè latte, i pudori e le paure ormai disfatte, i tuoi inni all'amore di dolore, ma io stavo tanto bene insieme a te. Serena, io ero serena, serena come un cielo blu, un fiore dentro ad un bicchiere, bastava e poi c'eri tu. Serena, io ero serena, poeti io e te, il resto non contava niente, non ci importava più. Il tuo sogno di riuscire si è compiuto. Il saluto del mattino e il telefono vicino. dice come stai, come stai, che vuoi che dica che va bene, dir che ho tutto e non ho niente non conviene. Quando stavo tanto bene insieme a te, serena, io ero serena, serena come un cielo blu, un fiore dentro ad un bicchiere, bastava e poi c'eri tu. Oh, professor Luciano, dica, dica. Lei non porta pazienza, porta... mi scusi se, sì, ci scusi se abbiamo trattenuta tanto così. Comunque è stata una cosa talmente interessante che... E io voglio chiedere, non c'è anche l'isola dei morti? Sì, si chiama San Michele, l'isola di San Michele, dove portano i morti. E l'isola, come Venezia, la città dei vivi, nel Medioevo era così, c'è la città dei morti. C'è chiaramente il cimitero dei veneziani, ma anche il cimitero degli artisti. Alcuni artisti si sono fatti seppellire, ad esempio, qualche grande musico, va bene, è sepolto a San Michele. Cioè, per i veneziani è l'isola che si vede di fronte. Per andare verso Muran c'è prima l'isola di San Michele. Ho capito. Ah, quindi ci si passa veneziani, per dire che qualcuno che va mai sto morto in gondola. Lo dicono anche per chi si sposa, quando uno si deve sposare, non si è ancora sicuro, dice: "Con te vedrò in gondola e abuserò il paion". Cioè, il paion era il lettuccio della ragazza. Allora, "Con te vedrò in gondola", quando significava che sposata, era già sposata, allora sulla abuserò via. Il paion, diceva il papà. Il paion era, da noi insomma usava pagliericcio, sì, che era fatto con le scandole, con le scartossi, appunto. Quindi abbiamo così passato in rassegna un pochino, sì, sinteticamente tutte le, un po' tutte le isole. No, Buon gustai ce ne sono ancora due. San Michele, le Vignole e Sant'Erasmo, perché lì hanno degli ortaggi primi che escono fuori, i primatici. Ad esempio sono famosissime le castraure. Gli altri ciocchi si prendono i bocci appena usciti da poco e sono tenerissimi e gustosissimi. E anche buonissimi veramente. Mi pare che ci sia una occasione particolare, non so cos'è, il Redentor, roba del genere. Il Redentor è una festa che fa Venezia. Sì, Venezia, sì. Si contro la peste, la prima peste. Esatto. Dopo che sia la seconda, quella della Madonna della Salute. Però se volete mangiare le castraure bisogna andare a Sant'Erasmo oppure vicino alle Vignole. Alle Vignole, fa anche i bossolai come acciosa. Bossolai, acciosa, sempre quei. E Isaletti? Isaletti anche. Oppure le bisciole. Dolce. C'è tutto un dei cibi che sono tipici, ad esempio la polenta fagiolà. Cioè la polenta fatta con i fagioli dentro. Chissà che leggera che è. È pesante. Sì. Però certo che dalla gastronomia, così, dalla cucina, passa tanta parte della cultura di un tempo, insomma, e anche quella attuale. Anche adesso, ad esempio, i grandi chef vengono qui a imparare come si fanno alcuni prodotti che si erano dimenticati. Da voi a Chioggia qual è il... Da noi a Trise e Saore. Broetto cos'è? Bisogna far bollire insieme più prodotti, chiaramente del mare, sì? Che viene fuori come un sugo, ed è se maniaco dentro, se mette tocchi di pan, magari le qui veci, in modo che faccia soppe, come che dicono gli altri. La zuppa di pesce? È zuppa di pesce. Noi la chiamiamo zuppa di pesce. Ma noi facciamo broetto, ce ne sono vari tipi, c'è quello di Livorno, noi abbiamo uno nostro con i nostri prodotti. E lì dipende dal gusto. Quando uno va in ristorante, viene bruetta alla ciosotta, che se non è che dai bruetta alla livornese, è tutta un'altra roba. Ah. Cos'è? Cacciucco quello? È cacciucco, cacciucco. È tutta un'altra roba. Sì, sì, sì. Comunque... E poi di dolci cosa avete a Chioggia? Ah, di dolci noi abbiamo le bisciole dolci. Avemo... Ma sono biscotti o...? Sono una specie di... Non sono proprio biscotti, sono proprio un dolce a forma di bissa. Ah, ho capito. Una bisciola di... Sì, sì, sì, che si taglia a fette. Ecco, poi noi abbiamo ad esempio, tipico che è tipico del Veneto, il castagnaccio, no? Il castagnaccio. Sì, sì, di autunno. Polenta, oppure fanno anche delle piccole, diciamo... pezzi rotondi, lo fanno e si mangia il castagnaccio con quest'altro tipo. Poi ce ne sono parecchi, io non sono, siccome sono diabetico, non sono un grande buon gustaio di queste cose. Ci vorrebbe mia moglie che è del yoga e lei lo fa anche bene. Che le, sì. Se ad esempio col radicchio fanno un dolce, la ciosotta, la sbrisolona ciosotta, è fatto con radicchio di Chioggia. Diventa buona? Dicono che sia buona e a me piace, non so perché che me ne danno poca. Ah, beh, certo, se lei io amo tanto i dolci. Poi fanno con, vi dicevo, la birra, ad esempio, con il radicchio di Chioggia, fanno anche la grappa al radicchio. Sono sì, quella prodotti. l'ho assaggiata. Prodotti che si possono bere. La birra da 2 anni adesso. E c'è un'innovazione in effetti anche questo. Qui si tratta proprio di innovare prodotti, innovare tradizioni, diciamo, cose di questo tipo. E sembra che ci sia una rispondenza notevole anche da parte del pubblico. Ah, sì, alla gente piace perché collega dal punto di vista alimentare con la tradizione. Ecco, questo sì. È fondamentale. Ad esempio, sì. Noi sul campanile, ogni tanto, quando fanno i fuochi, sì. Andiamo su il campanile e se portiamo su il saore con la polenta e il vin, e se vediamo i fuochi. Il saore che contiene naturalmente cipolla. Sono le sardelle, a chi non piace. Sardelle, sì, sì. Che c'è anche pinobili, chi che vuoi, se mette anche il soglio lì dentro. Dipende, dipende dai gusti. Sì, sì, sì, insomma. Quindi la cucina... una variante sul tema, insomma. La cucina spazia tra... Allora, professore, noi penso che l'abbiamo trattenuto, abbiamo abusato della sua pazienza e comunque è stato veramente meraviglioso perché ci ha spiegato cose che, perlomeno io non conoscevo. Assolutamente, sono d'accordo, sì, sì. Quindi a noi non resta altro che ringraziarla infinitamente. Alla prossima occasione. Va bene. Comunque ci scusi se abbiamo trattenuto troppo. Va bene, non c'è problema. Grazie. Buonanotte, professore. Grazie, buona serata. Buona serata. Ancora. Ecco, ringraziamo di nuovo il professor Bellemo e ci ascoltiamo una canzone che non è molto recente, ma però che è sempre simpatica ascoltarla in primavera. Allora, è Canzone di primavera cantata da Claudio Villa. Oggi è venuto a visitarmi uno signoro, m'ha fatto un dono, e sai qual è? Son poche note scritte su di un rigo solo, 4 parole, di più non c'è, ma son sicuro piaceranno a te. Una canzone di primavera, è il più bel fiore sbocciato al sole che io dono a te, è la promessa di un'alba chiara, con il profumo di chi vuol bene soltanto a me. La melodia dirà al tuo cuore, il primo amore non si può dimenticare, e bacerà la bocca tua sincera, la mia canzone di primavera. Di una alba chiara, So, sai Antonio, questa canzone è stata una canzone del primo Musicarello, ti ricordi Musicarello? Musicarelli, sì, sì, ecco, giustamente disprezzati e poi rivalutati proprio, negli anni. Sì, il primo Musicarello proprio si intitolava Canzone di Primavera, che parla appunto di Claudio Villa che vince un concorso e c'è questa canzone. Vabbè. Cosa ci diciamo che come ultima tranche molto breve volevo introdurre un libro dal quale trarremo alcune letture le prossime volte, di Michela Bruniera e del professor Gianfranco Siega, che c'era una volta, Fiabe e tiritere come che le contava i nostri veci, con illustrazioni di Paolo Mameli, Filippi Editore, Venezia. La prefazione. Le fiabe, prima che la nostra secolare tradizione orale vada del tutto perduta, abbiamo deciso di dare le stampe, per conoscenza e memoria di un più vasto pubblico, alcune fiabe originali, raccolte sul campo negli anni 60 ed integrate dai nostri ricordi. Ne presentiamo qui, per gli appassionati, una ristretta e discreta antologia. Distinguiamo subito ciò che caratterizzava queste popolari narrazioni, che a volte proseguivano, con aggiunte estemporanee e variazioni individuali dettate dal momento, anche per ore intere, quando non erano addirittura riprese nei giorni successivi. Innanzitutto esse non devono essere confuse con quelle edulcorate fiabe che oggi si raccontano ai nostri bimbi a letto per farli dormire. A letto allora si andava solo col baccetto della buonanotte e d'inverno subito ben sotto le coperte per il freddo. Sovente, anche se non sempre, orrifiche e sanguinose, esse trovavano la loro motivazione solo all'interno del processo creativo stesso, gratificante più il narratore, soggetto principale ed interprete mimico della fiaba, che l'ascoltatore. Insomma, non costituivano certo, se non a volte per una frettolosa morale spicciola e quotidiana, un elemento educativo e psicopedagogico adatto a noi piccoli ascoltatori. Di esse noi coglievamo, e questo era quanto volevano comunicarci, solo il fascino di una oscura terribilità ed un ignoto baratro che ci inghiottiva ed in cui ci lasciavamo volentieri precipitare. Erano queste le nostre fiabe favorite e sempre richieste, quelle più truculente e spaventose. E non succede forse lo stesso ancora oggi agli adulti, nell'inseguire la quotidiana insistenza mediatica sugli atroci particolari del delitto del giorno? Proprio per questo mai ci venivano raccontate di sera, e chi avrebbe potuto dormire poi? Ma nei pomeriggi piovosi, quando non si poteva andare a giocare fuori casa, raccolti in un piccolo gruppo, si restava lì a bocca aperta, avvinti dal fascino che l'orrore sempre esercita sull'animo dell'uomo. Esse costituivano il piccolo schermo dei nostri tempi. E lo scopo ultimo era così raggiunto. Immobili per la paura o anche solo avvinti dal narratore, stavamo fora dai pie per qualche ora, sollevando i parenti dalle nostre abituali e quotidiane attività di disturbo. Bella. Molto simpatica. Sì, sì, molto sì, bella. Sì, decisamente. Beh, ma comunque hanno delle belle cose, ci sono delle belle cose su questo straordinario libro. È una miniera praticamente di indefinita ricchezza, ecco, diciamo così. Cosa dici? Facciamo in tempo? Non facciamo no, tempo niente. E niente, il tempo che come al solito la poesia di Liliana Bellemo la prossima volta. Lo facciamo la prossima volta. Facciamo un incipit, diciamo, come collaborazione con questa puntata, diciamo così, ecco. Va bene. È la cosa migliore, in modo che diamo, come dire, il tempo senza essere anche involontariamente colti dalla fretta che poi traspare magari anche. Altro che traspare, veramente quindi, sai. Sì, perché si è trasparenti effettivamente anche dal punto di vista, come dire, difatti, comunicativo. Non so, quando sei al telefono magari che vai hai fretta dai proprio l'impressione niente, noi vogliamo invece lasciare i nostri ascoltatori e soprattutto le nostre ascoltatrici, in particolare quelle che chiamano, che ascoltano da lontano, che sono naturalmente le nostre preferite, e niente, con tutto assieme alle altre naturalmente, e un cordiale saluto alla prossima occasione. Antonio, grazie a te, e con te e col nostro regista Eddie Daici diamo a tutti una buona e serena notte. Ciao! Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.